Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. In un comunicato uscito sul sito dell'esercito statunitense, un gruppo di scienziati guidati da Kurt Jacobs, ricercatore di uno dei tanti laboratori dell'esercito americano, hanno parlato della possibilità che in 10 anni si possa dar vita a dei computer quantistici che lavorano a temperatura ambiente, mentre sappiamo che oggi questi computer quantistici, sui quali ci sono enormi aspettative, funzionano solo a temperature bassissime, 270 gradi sotto zero o giù di lì, ciò che li rende molto complicati e costosi da gestire. Ne parliamo con Augusto Smerzi, dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Buonasera Smerzi, bentornato. Buonasera. Allora, senta, intanto ci tocca, mi sembra è inevitabile ricordare quali sono i vantaggi, almeno sulla carta, del calcolo quantistico rispetto al calcolo tradizionale, che è quello che facciamo con i computer, come quello che ho io davanti agli occhi in questo momento. Ma, come dire, esiste in natura dei sistemi sono molto complicati da studiare, oppure dei conti che sono molto difficili da portare a termine. Per esempio, fattorizzare numeri primi o riuscire a capire come la clorofilla riesce a trasformare l'energia solare in zuccheri o, certo, o ammoniaca, sono problematiche che non si riescono a risolvere con il computer classico. Cioè, noi potremmo scrivere il programma e potremmo aspettare che un'era geologica per vedere la soluzione. Un'era geologica per vedere le soluzioni. Allora, il computer quantistico, si è scoperto da una ventina d'anni, permette di fare delle operazioni o permette di affrontare alcuni tipi, alcune classi di problemi e risolverli su tempi molto molto più brevi, cioè sicuramente all'interno della giornata, della settimana o del mese, laddove invece il computer classico ci metterebbe la vita di una stella. Sì, sì. Milioni, centinaia di milioni di anni o cose del genere. Proprio per la natura intrinseca di questi problemi, che aumentano enormemente di complessità appena aumentano un pochettino di dimensioni, no? Per cui, per dirne una molecola molto semplice si riesce a simulare abbastanza bene con un computer tradizionale, ma appena diventa un po' complessa diventa praticamente impossibile simularla. Ecco, ci sono vari approcci per cercare di realizzare il computer quantistico. Quali sono? Ce li ricorda? Ma ci sono effettivamente tipicamente 3 tipi di piattaforme che sono usano gli atomi freddi, cioè vengono manipolati singoli atomi e poi intrappolati in campi magnetici, oppure ci sono delle piattaforme a stato solido dove ci sono delle correnti superconduttive. Sempre freddi, sempre ambienti comunque molto freddi, anche in questo caso. No? Sono due piattaforme che devono stare a temperature eccezionalmente basse. Se per esempio consideriamo gli atomi, devono stare a temperature così basse che praticamente siamo al dode del nano Kelvin. Essenzialmente bisogna creare degli spot, così, delle piccole regioni che sono le più fredde in assoluto che si possono trovare nell'intero universo, certo, così dire. Cioè bisogna riuscire a creare un frigorifero che con temperature che non esistono altrove. Invece quelli a superconduttori abbiamo delle correnti elettriche che stanno in stato di sovrapposizione, cioè una corrente che gira in un verso oppure gira nell'altro, creando quello che viene chiamato il qubit, dovrebbe andare a temperature poco superiori al Kelvin, intorno al 4 Kelvin per esempio, sono le temperature dell'elio liquido. Comunque una roba complicatissima. Bene. Da gestire, no? Sempre. Complicata e che richiede tantissima energia. E che è molto anche delicata. Perché questo? Perché gli atomi interagiscono fortemente con l'ambiente, vibrano, collidono fra di loro e quindi diminuire la temperatura, diminuire la loro agitazione, per così dire, è cruciale, perché poi andremo col computer a dover manipolare ciascun atomo. Certo. Quindi vogliamo che questi atomi siano ben tranquilli. Con la luce il discorso è radicalmente diverso, perché la luce non interagisce i fotoni non interagiscono fra di loro, non c'è un'interazione, così come può essere un'interazione elettromagnetica fra gli atomi, la luce non interagisce. Interagisce molto debolmente, non interagisce affatto con l'ambiente circostante. Quindi noi non abbiamo bisogno di mettere questi fasci laser all'interno di una camera vuota o abbassare la temperatura del laser, eccetera. Sono fasci che possono benissimo propagarsi nell'aria e a temperature del laboratorio. C'è però uno svantaggio, proprio perché interagiscono poco, è difficile farli parlare, questi raggi di luce che servono allora, per fare il calcolo. Perché interagiscono poco, esattamente. È difficile che, innanzitutto, rivelarle, farle parlare fra di loro, ma anche rivelarle. Perché per fare il computer quantistico dobbiamo andare a creare stati di singolo fotone, di singola particella. Okay. Bene, siccome sono così difficili da manipolare, perché interagiscono poco con noi, questi stati di singolo fotone sono difficili da creare. Da creare e da leggere in un secondo, e da leggere in un secondo momento quando vogliamo leggere, diciamo, il risultato del calcolo, no? Difficile da creare e difficile da leggere, esattamente. Dunque, Smerzi, dei dettagli della ricerca americana non abbiamo tempo di parlare. Naturalmente è basata su questa terza via che ci ha appena accennato. Le chiedo però quanto la possibilità di arrivare a dei computer quantistici a temperatura ambiente in 10 anni, se lei è d'accordo. Ma no, nel senso che è difficilissimo dare una tempistica precisa. Impossibile. C'è chi pensa che ci vorranno almeno 30 anni, chi 50 anni. 10 anni sicuramente è molto ottimistica come previsione. Detto questo, c'è un altro aspetto. Il fatto è che la ricerca non avanza in maniera lineare. Noi, negli ultimi, diciamo così, 20 anni, abbiamo, come dire, sviluppato queste tecnologie in maniera con piccoli passi in avanti. Se continuiamo con questo passo, sicuramente ce ne vorranno altri 50 o 100 di anni per raggiungere questi obiettivi. Il fatto è che la ricerca spesso, storicamente, si è visto un avanzo in maniera lineare, un avanzo per salti. Quindi la speranza, l'attesa, se così dire, se vogliamo, che abbiamo, che quindi tutti i fisici abbiamo, anche se a volte non esprimiamo, è che ci siano dei salti. Dei salti che ci permettono di scoprire dei meccanismi, capacità di manipolare gli atomi, i fotoni, non conosciuti adesso, e che ci permetteranno finalmente di fare, come dire, un avanzamento velocissimo per quanto riguarda alcune problematiche. Allora, se vogliamo, sulla base di questi salti, possiamo dire che nei prossimi 10 anni avremo, se questi salti verranno scoperti, 10 anni sicuramente è un tempo in cui potremo avere un computer quantistico. Poi ricordiamoci che questi sono ricercatori militari e quindi non è che ci raccontano tutto. Chissà che qualcuno di questi salti non l'abbiano fatto senza dircelo. Sa, è interessante, c'è un precedente storico molto diverso, che è quello dello sviluppo della bomba atomica. Eh sì, pensavo anch'io. Allo Salamos. Lì eravamo di fronte a una difficoltà tecnologico-scientifica straordinaria, enorme. Per esempio, uno dei problemi era produrre l'uranio arricchito. Se riuscivano a produrre milligrammi, per avere la bomba bisogna produrre dell'ordine di chilogrammi. Sì, 20, ce ne vogliono 25 per fare la bomba a uranio come minimo. Esattamente. Tuttavia, tutti gli scienziati del tempo vennero arruolati dal più grande fino all'ultimo degli studenti che sta quasi per laureare, e alla fine, in maniera, appunto, con un salto enorme, in 2 anni si riuscì a sviluppare quello che nessuno all'inizio pensava potesse essere possibile. Grazie Augusto Smerzi. Grazie a lei e buona serata. Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, a domani.